io proprio me ne sbatto dei limiti, ne arrivino quanti ne vogliono. C'ho 74 anni, fra qualche anno sarò morto. Beh, ma no, che cazzo me ne fotte a me, ma degli immigrati? Io fra l'altro, se arriva anche qualche nero che viene a lavorare in casa mia per poche lire, sono anche contento. Sono anche contento. I miei antenati facevano gli stampatori, cioè gli editori, nella città di Parenzo. Mentre a casa mia nel 500 stampavano i libri, a casa sua non sapevano neanche che cosa fossero gli spazi bianchi tra le lettere. Ignorante di un ignorante. La legge è sacra, sacra, sacra. La legge è sacra, sacra, sacra. La legge non è sacra, sacra, sacra. La legge è sacra, sacra, sacra. Ma che cazzo me ne fotte a me? Che cazzo me ne fotte a me? Me? Che cazzo me ne fotte a me? Me? Che cazzo me ne fotte a me? Non voglio sentire parolacce e insulti dentro questo studio. Chiaro? Nessuno. Chiunque le dice va fuori. Chiuso il discorso. Io posso anche andarmene, guarda. Ecco, va bene. Non è possibile se... perché già la si legge già... non è sacra. Sacra. Già la legge già... non è sacra. Ora c'è l'altro rituale, quello di Parenzo, cari amici. Il tuo divino. Prendete la testa del divino, mettetelo dentro la tazza del cesso e più volte tirate. La legge non è sacra.